Ti stai sbagliando, che hai visto non è, non è Francesca. Lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda, però non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Lei vive per me.